Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Homage to the Buddha, the Blessed, Noble, and Fully Self-Enlightened. Omaggio al Buddha, al Beato, al Nobile e al pienamente autoilluminato. So this is the usual talk I give at this point, mainly aimed at beginners. E questo è l'usuale discorso che offro a questo punto del ritiro, di solito è mirato ai principianti. So some of you have been on past retreats with me. Alcuni di voi sono già stati a dei miei ritiri passati. And you may have had enough of this talk. Forse ne avete abbastanza di questo discorso. So this is your time to escape. Quindi questo è il momento per voi di scappare. And practice some walking meditation. E potete fare una meditazione camminata. Or sitting. Or sitting. Ah, okay. They haven't had enough. So there are three things that we must be very clear about. Quindi ci sono tre cose sulle quali dobbiamo essere molto chiari. What does the Buddha mean by right awareness? Cosa voleva dire esattamente il Buddha con la giusta consapevolezza, la retta consapevolezza? How do we deal with all these physical and mental states that come up so that they become an object of our meditation? Quindi come affrontiamo, come gestiamo tutte queste sensazioni fisiche e mentali che sorgono in modo che diventino un oggetto di meditazione? And what is it that we're actually investigating? E cos'è veramente che stiamo investigando, che stiamo ricercando? Because it's through the process of investigation that we begin to understand how things really are. Perché attraverso questo processo di investigazione, diciamo, che noi veramente scopriamo come sono le cose, come sono i fenomeni. And this is what we mean by enlightenment, awakening. Ed è proprio questo che intendiamo per l'illuminazione, il risveglio. Ah. So, in order to understand right awareness, it's always good to look at the Buddha's life, the Buddha's experience. Quindi per capire cosa si intende per la giusta consapevolezza è sempre bene guardare la vita del Buddha, l'esperienza del Buddha. So first of all we have to understand why he left his homely life, why he left his wife and child and all his family, etc. Quindi per prima cosa dobbiamo capire perché ha lasciato sua moglie, suo figlio, tutta la sua famiglia, la sua vita reale. So there must have been a very good reason, eh? Ci deve essere stato un buon motivo, un motivo molto buono. They were all very sad at his going, but I'm sure he said, I'll be back in two or three years. Erano tutti molto tristi della sua partenza, ma sono sicuro che gli ha detto, sì, io tornerò tra due o tre anni. So, the first thing is that the ordinary pleasures of life had become empty for him. Sicuramente la prima cosa è che tutte i piaceri ordinari della vita per lui erano diventate come vuote. He expresses this by after a party and he sees all these bodies in various ugly poses. E questo lo esprime quando racconta di cosa ha provato dopo una festa, quando ha visto tutti questi corpi addormentati con, in posizioni un po' così, sgradevoli. It's coming to an end. It's coming to see that sensual pleasures don't give the joy that we want. È come arrivare a capire che i piaceri sensoriali non ci danno le gioie che noi vogliamo. And then he had what we would call an existential crisis. E da lì è cominciato ad avere quello che noi chiameremmo una crisi esistenziale. So this was put in the form of a myth. E questo è stato poi tramandato sotto forma di un mito. That when he was out hunting, he came across somebody who was very sick, somebody very old, and a corpse. e quindi si racconta che una volta è uscito per la caccia e ha incontrato una persona molto vecchia, una persona molto malata e un cadavere. But he also saw an ascetic sitting under a tree. Ma ha visto anche un asceta seduto sotto un albero. So, you know, sometime as youth comes to an end, it's as though we realize the really good times may be over. Perché succede spesso che quando si arriva alla fine della giovinezza ci accorgiamo che le cose belle, divertenti, forse arrivano ad una fine. And there comes also a time in life when we see ahead of us nothing, the possibility of decrepitude and senility. E arriva un punto nella vita in cui vediamo davanti a noi solo la verità della, dell'essere decrepiti e senili, si dice, la senilità, l'invecchiamento in altre parole. So, with these in mind, he really wanted to know whether there was an end to this. To this suffering. E quindi con queste cose in mente il Buddha si è apprestato a cercare di vedere se c'era effettivamente una fine a questa sofferenza. And remember, he would have believed, and it also became his experience, that one keeps coming back into some sort of life form. Ricordate che lui comunque credeva, e questo poi l'ha verificato con la sua esperienza, che una persona sarebbe continuata a ritornare in altre forme di vita. So this was an obsession of the age. Questa era una sorta di ossessione di quell'epoca. Many men and some women went out and lived, you know, like ascetics. Molti uomini e alcune donne lasciavano la casa, la famiglia, per vivere come degli asceti. All of them trying to find happiness. E tutti questi cercavano di trovare la felicità. So the first teachers he goes to are those who teach him how to make himself, how to create ecstasy within himself. Allora, i primi insegnanti a cui si rivolge sono quelli che gli insegneranno a trovare stati estatici dentro di lui. So these you find in all religions. E questi personaggi, questi insegnanti, li trovate, questi maestri, diciamo, li trovate in tutte le religioni. Yes, through devotional practices, for instance. Per esempio, si può giungere a queste estasi attraverso delle pratiche devozionali. If you see the statues of saints in Catholic churches, you see that they're always in ecstasy. Se vedete queste statue dei santi, per esempio nelle chiese cattoliche, vedete che hanno tutti, sono sempre in stati estatici. So he practiced what we call the absorption states. Quindi ha praticato quello che noi adesso chiamiamo degli stati di assorbimento. But just like everything else in life, they came to an end. Ah, proprio come tutto il resto nella vita, alla fine sono giunti a un termine. And he found himself again, depressed and anxious. E di nuovo si è ritrovato depresso e ansioso. Yeah. So then, if we follow the normal story, he tries mortification exercises. Allora poi, continuando in questa storia che viene raccontata normalmente, lui prova con le pratiche di mortificazione. So there were two philosophies at the time, two theories. A quel tempo c'erano due filosofie, due teorie. So the first one was that, you know, you actually only have one life. La prima è che effettivamente hai solo una vita. And so you may as well enjoy it as much as you can. Tanto vale godersela il più possibile. So we have many, you know, our society is very, you know, scientific materialists. La nostra società è molto così orientata verso la scienza, molto materialistica. And so those sorts of people were trying to find, you know, a much deeper happiness, even though they knew that they'd be annihilated. Quindi queste persone cercavano una felicità più profonda, pur sapendo che prima o poi sarebbero stati annichiliti. Avete capito? Sì, annichiliti. So, some thought that you were reborn into higher and higher realms, and then you disappeared. So, many theories. Is this still, this is the second theory. No, it's annihilation. The first, yes, you got reborn until you got verified, and then you annihilated. Ah, ok, quindi sempre questa prima teoria del nichilismo, allora si credeva che si continuasse a rinascere in stati sempre più elevati, però poi alla fine arrivava appunto a essere annichiliti, eliminati. For those of you who know Buddhism, the Buddhist teachings, you might know that after the eight jhanas, the rupa, arupa jhanas, there's nirodha samapatti. Per coloro di voi che conoscono gli insegnamenti del Buddha, saprete che dopo i quattro jhana materiali, quattro immateriali, c'è il nirodha samapatti. The attainment of the end of perception and feeling. Quindi l'ottenimento, il raggiungimento dello stato della percezione, della non percezione. The Buddha recognizes that as a particular attainment. Quindi il Buddha lo riconosce come un particolare risultato, diciamo. But it's not Nirvana. Ma non è il Nirvana. No. Okay. So, the other theory was that there was a soul, an eternal soul. L'altra teoria era che esistesse un'anima eterna. And it was weighed down into this form of being by its karma. Ed era come appesantita, diciamo, in questa forma attraverso il karma, questa forma umana attraverso il karma. The body itself was a manifestation of karma. Il corpo stesso era una manifestazione del karma. So, if you think about it, if we did not have eyes, we would not have lust. If we didn't have hunger, we wouldn't have greed. Everything was blamed on the body. Quindi se ci pensate, uno potrebbe dire, se non avessimo gli occhi non ci sarebbe il desiderio, se non ci fosse la fame non avremmo l'avidità o il desiderio di mangiare. Cioè tutto in qualche modo dipendeva dal nostro corpo. So one of the main things was to fast and fast and fast and let the body go. Quindi una di queste pratiche era quella di digiunare fino a quando il corpo proprio si potesse lasciare andare. The James Saint starves himself to death. That's his point of departure. Il santo jainista, il modello del santo jainista, sarebbe proprio morto di fame, no? Attraverso il digiuno. Questo sarebbe stato il suo modo di andarsene dall'esistenza. So the Buddha practiced this seemingly very with great commitment. E pare che il Buddha abbia seguito questa pratica con un grande impegno. He said he could hold his spine through his stomach. E diceva che addirittura dopo tutto questo digiuno riuscisse a tenersi la spina dorsale attraverso lo stomaco. La fonte era diventato magro. If you try that, you'll see. Very difficult. Potete provarci, vedrete per voi stessi, è molto difficile. But he was still depressed and anxious. Ma continuava a essere depresso e ansioso. So he left his companions. Ha lasciato i compagni. And we can only presume he's now in a state of despair. Adesso possiamo supporre che lui si fosse trovato in uno stato di disperazione. Because he's left the home life, he's found nothing in the spiritual exercises of the day. And he still has this suffering. Quindi ha lasciato la famiglia, non ha trovato nessuna risposta nelle pratiche spirituali di quel tempo e non ha ancora trovato una risposta alla fine della sofferenza, ancora questa ansia. Now something happens and we even know the name of the woman, so it's a sort of a turning point. E quindi succede qualcosa e conosciamo anche il nome di questa donna e quindi è una specie di un punto di svolta. Sujata was carrying some rice cakes or rice pudding to offer to a god. Quindi Sujata stava portando questo budino di riso, diciamo, a una divinità. But when she saw him, she gave it to him. Ma quando ha visto il Buddha in quella situazione, gliel'ha offerto. So this revived him. E questo in qualche modo questo riso l'ha rivitalizzato. And sometime after that he has a memory from childhood. E poco dopo questo episodio lui ha un ricordo della sua infanzia. He remembers watching his father opening the ploughing season with a ceremony. si ricorda di aver visto da bambino suo padre che con una cerimonia dava l'avvio alla stagione dell'aratura dei campi. So now he's a little child, maybe somewhere between 5 and 10, that sort of age. Quindi è un bambino, si ricorda di essere stato un bambino tra i 5 e i 10 anni più o meno. And he is completely engaged in what his father is doing. Completamente impegnato, assorto a osservare quello che fa il padre. And because perhaps this is the first time he's seen it, there is this curiosity. E forse perché era la prima volta che lo vedeva, c'era questo elemento di curiosità. So, to help us understand what right awareness is, we can have the face of a child in our minds. Quindi per aiutarci a capire cos'è questa giusta consapevolezza, possiamo appunto aiutarci con l'immagine di un bambino, il viso di un bambino. When a child becomes interested in something it's never seen before. Quando un bambino si interessa a qualcosa che non ha mai visto prima. Ah, so for instance a beetle or something. Per esempio un maggiolino, uno scarafaggio, qualcosa del genere. So the child is coming from a position of don't know. Quindi il bambino parte da una posizione del non so. Non so. And suddenly an interest arises into what is this. Improvvisamente sorge un interesse che fa dire, ma questo che cos'è? Cos'è? And two things happen. His eyes become fixated. Succedono due cose. La prima è che gli occhi diventano in qualche modo si fissano sull'oggetto. This tells us the strength of his concentration, of the concentration. E questo ci rivela la forza della concentrazione. And the jaw drops. E poi casca la mascella. To their parents, they think the child is gormless, it's not thinking. I genitori possono pensare che il figlio si sia instupidito, cioè che non stia pensando. So he gives a little tap on the back of the head, wake up. E gli danno uno scappellotto sulla testa, e lo svegliati. Thereby ruining the child's possibility of becoming fully liberated right there and then. Quindi rovinano la possibilità a questo bambino di diventare pienamente illuminato in quel momento. Our excuse is that our parents did it to us. La nostra scusa è che beh, ce l'hanno fatta, cioè è colpa dei nostri genitori. So, what the jaw tells us is that there's no thinking. Quello che ci dice questa mascella che cade, diciamo, è che non c'è l'attività del pensiero. There's no images made, there's no imagining, there's no thinking. Non ci sono immagini, non c'è pensiero, non ci sono fantasie. We have that attention and the curiosity. Quindi abbiamo questa attenzione, la curiosità. And no thinking. E non c'è pensare. And no concept, no history to put onto the object. E non c'è, non ci sono concetti, non c'è una storia dietro che possiamo collegare con quell'oggetto. So. That is the meditative mind. Quindi quella è la mente meditativa. And it's with this, you see, that the Buddha's meditation turned round on itself. Ed è proprio con questo ricordo, diciamo, che l'atteggiamento del Buddha è come se si fosse rigirato su se stesso. Instead of trying to find happiness, he began to ask the question, why am I suffering in the first place? Anziché cercare di trovare la felicità, si è posto la domanda, ma perché io comunque sto soffrendo? And it's with this inspiration that he sat under what we call the Bodhi tree. Ed è proprio con questa ispirazione che lui si è seduto sotto quello che noi chiamiamo l'albero della Bodhi. He determined, the great determination, not to move until he had got the answer, or he would die right there and then. E quindi qui è quando poi espresse questa grande determinazione, questo impegno a non muoversi fino a quando non avesse trovato una risposta. Or he would die. Ah sì, o piuttosto sarebbe morto. Big determination. Una grandissima determinazione. So I always say, lucky for him, lucky for us, he found the answer. Quindi io dico sempre, beh, è stata una fortuna per lui, una fortuna anche per noi, che lui ha trovato la risposta. Hmm. So, if you, when you come to sit, if you can either bring the image of a child to mind, or remember to come from a place of don't know, not sure. Quindi quando vi sedete potete portare alla mente questa immagine di un bambino, oppure questo punto di partenza del non sapere, del non conoscere. And to make sure the jaw is relaxed. Assicuratevi che la mandibola sia rilassata, and la mascella. And to raise the curiosity. E di far sorgere questa curiosità. Mm. So that is what the Buddha means by right awareness. Ed è questo che il Buddha intende con la retta consapevolezza. This word sati is always joined with the word panya, which means intuitive intelligence. Quindi questa parola sati, che viene tradotta con consapevolezza, viene sempre in coppia con panya, che vuol dire questa intelligenza intuitiva. So we have intuitive awareness. Quindi abbiamo come una consapevolezza intuitiva. Mm. The awareness is the receiving. Che la consapevolezza è come l'atto del ricevere. Ah. So this is what we practice in the standing meditation. È quello che abbiamo praticato nella meditazione in piedi. Mm. But because there is a curiosity, there is a grasping, an understanding of what it is we are seeing. Ma poiché c'è questa curiosità, allora c'è un voler afferrare, un comprendere ciò che stiamo osservando. Mm. These are not two faculties, they're two sides of the same faculty. Quindi non sono due facoltà, sono le due facce della stessa facoltà. Mm. So first of all we look and then we see. Quindi prima guardiamo e poi vediamo. Ah. Si capisce in italiano? Prima osserviamo, poi effettivamente. If you hear a noise, you go to look. È come quando sentiamo un rumore, noi andiamo a vedere cos'è stato. Ah, and then you see it's the cat. E poi vedete, ah, è il gatto. Ah. So it's the same process. We're looking and the seeing will come naturally. E quindi è lo stesso processo. Prima noi stiamo guardando e il vedere accadrà naturalmente. Ah. If you try to see something, then you are bringing something extra to your meditation. Se voi vi sforzate di vedere, allora è come se voi portaste qualcosa di extra, qualcosa di in più nella vostra meditazione. Ah. We can talk about that more this evening. Ma stasera ne parleremo di più. So now the next thing is, how do we deal with these physical mental states? Allora adesso la cosa successiva è, ma com'è che noi affrontiamo questi stati mentali psicofisici? So, physical states, when they become unpleasant, for us, it's an investigation into pain. Quindi, per quanto riguarda i fenomeni fisici, quando diventano spiacevoli o dolorosi per noi, questa è un'opportunità per investigare sulla sensazione fisica, del dolore. So, I will leave you with a question. Is pain a mental construct or does it really exist? Ok, quindi vi lascio con questa domanda. Il dolore è un costrutto mentale, diciamo, oppure un'idea mentale, oppure esiste veramente? And it's the same with pleasurable feelings. E questo vale anche per le sensazioni piacevoli. Now, when pain comes, so long as soon as the pain is so much that you cannot maintain the investigation, it's better to move. Per quanto riguarda il dolore, se arriva un punto in cui non riuscite a mantenere comunque questo atteggiamento investigativo, allora è meglio muoversi. And then you intending to move, you see, make the intention. E poi però esprimete l'intenzione di muovervi. And then, when you move, just be aware of how the physical sensations are changing. And how the mental state is changing from agitation to calmness. E poi man mano che vi spostate, notate molto attentamente come cambiano le sensazioni fisiche e anche come l'atteggiamento mentale va da uno stato di insofferenza a uno stato più piacevole. Now, when it comes to the mental, emotional, what do we call them? hindrances. Per quanto riguarda invece gli ostacoli mentali o emotivi, there are just two main types. It's very simple. Molto semplice, ce ne sono di due tipi. There are those types which create films for us. The mind is always thinking, imagining. Sono quelli che ci creano dei film nella mente, la mente continuamente immagina, fantastica. Planning and then all the stuff with hating and all the stuff with fear and anxiety. E quindi c'è tutto il pianificare o l'avversione o l'ansia, la paura, la preoccupazione. Mm. Yeah. So it's always the same. You note the attitude which is driving the mind. E quindi vale sempre lo stesso discorso, cioè notate l'atteggiamento che in qualche modo spinge la mente in quella direzione. Mm. And you come into the body. Poi entrate nel corpo. And you feel what it is, the anxiety here, the anxiety, the restlessness, whatever. E poi sentite nel corpo come si manifestano questi stati, non so, l'ansia, per esempio, nel petto, o la paura, e così via. And stay there, either till it begins to fall away, or until it's gone. E quindi rimanete lì, fino a quando non, gradualmente non si dissolve o non sparisce. Mm. Don't go back to the breath, you see. Ma non tornate immediatamente al respiro. No. Only when everything is calm you go back to the breath. Solo quando tutto è ritornato alla calma, tornate al respiro. So what you are saying to your heart, manifest your problems, let me feel them. Quindi è quello che voi state dicendo al vostro cuore, manifesta i tuoi problemi, manifest your problems, sì, i tuoi problemi, fai in modo che io le possa sentire. Ah, sì, so don't let them escape into the head with all this thinking. Ma non lasciate che arrivino alla mente, alla testa, che cominci a pensare. Because this is how they generate themselves. Perché è così che si, che continuano ad alimentarsi, a generarsi. Mm-hmm. If you don't feel anything, if the mind is wandering and you say to yourself, oh, that's anxiety, and you come into the body and don't feel anything, then you go back to the breath. Se invece, non so, notate che la mente sta proliferando, quindi la notate come ansia, andate nel corpo, ma vedete che il corpo non manifesta nulla, allora sì, potete tornare al respiro. So that's all those mental states that agitate us. Quindi questi sono tutti quegli stati mentali che ci creano agitazione. Mm. Then there's dullness and lethargy. Poi c'è un altro cosiddetto ostacolo che sono il torpore, lo stato letargico. So these also are to be observed and felt. Anche questi vanno osservati e sentiti. So if it's if your head is dull and heavy, take your attention around it, keep moving around your head to stay awake. Quindi se sentite la testa pesante, un po' annebbiata, continuate a girare intorno alla testa con la vostra attenzione. Mm. And find out what is this dullness. E cercate di capire che cos'è questa nebbia, questo torpore. Mm. In the body when you feel heavy and tired, so keep moving around the body. Quando sentite stanchezza nel corpo, continuate a muovervi, spostarvi intorno al corpo. Mm. Where do you feel tired? Dov'è che vi sentite stanchi? Did you ever feel very, very tired in your toes? Siete mai sentiti molto, molto stanchi nelle dita dei piedi? No. So, keep moving, but investigate the feeling. E continuate a muovere, a spostare l'attenzione, ma investigate su questa sensazione. Mm. So we can go in more detail with this sometime during the week. E durante la settimana poi parleremo più in dettaglio. Mm. So, it's very simple. When the mind is agitated, we note what the attitude is that's driving it and we just come back to the body. Quindi è molto semplice. Quando sentiamo che la mente è agitata, notiamo quello che in qualche modo la sta alimentando e andiamo nel corpo. Mm. And if it's sleep or tired, keep awake. E invece se è stanca, sonnata, cercate di tenervi svegli. Ah. But don't be too hard on yourself when it comes to sleepiness over the weekend or for 3 days. Non siate troppo severi con voi stessi se vi sentite assonnati i primi 3 giorni. Because you may be tired. Perché può essere che siate veramente stanchi. Mm. So finally, the question: well, what is it we're investigating? E quindi alla fine c'è questa domanda: ma che cos'è che stiamo investigando? Ah, so these are the three characteristics of existence. Allora qui si tratta delle tre caratteristiche dell'esistenza. Not seeing how impermanent life is, we create a sense of security because we see it as continuous. Quindi non vedere l'impermanenza della vita fa sì che ci creiamo una sorta di sicurezza perché we create continuity. Perché è un nostro modo di creare una continuità. This is how it was yesterday, this is how it is today, this is how it will be tomorrow. Questo come era ieri, questo come è oggi e quindi questo sarà come sarà domani. This is why when something unfortunate happens, it always comes as a great shock. Ed è per questo che quando capita qualcosa, una grande sfortuna, diciamo, viene come uno shock. Mm. But our meditation is always drawing us to the absolute reality of the present moment. Ma la nostra pratica ci porta all'assoluta realtà del momento presente. And the reality of the present moment is that it's very short, and when it goes, it's gone forever. Ma è la realtà del momento presente è che è molto breve e quando se ne va per sempre. And so we have to come, we have to see that nothing is secure. Quindi dobbiamo veramente vedere che non c'è nulla di sicuro. And that brings up fear. E questo fa sorgere la paura. But when we finally overcome fear, then we are living in reality. Ma quando riusciamo a superare questa paura, allora cominciamo a vivere nella realtà. So this is the Buddha, you see. Questo è quello che diceva il Buddha. So once we can live in the present moment totally, that is when we will be happy. Quando riusciamo a vivere totalmente nel presente, è proprio lì che saremo felici. It is because we cannot live in the moment that we are always anxious about the future. È proprio perché non riusciamo a vivere nel momento presente che siamo sempre in ansia per il futuro. And we always are nostalgic about the past. E siamo sempre nostalgici per il passato. So, to see the breath, the rising and falling of the breath. Put your attention especially on the falling, on the disappearance. Quindi nell'osservare il respiro che sorge, che passa, mettete l'attenzione sulla parte finale, cioè il respiro che se ne va. When you take a step, the rising and falling is the end of the footstep. Make note that that's the end of the footstep. Quando fate la camminata, il passo, quindi il piede che si alza e si abbassa, notate bene l'abbassare del piede, la fine del passo. At the end of a meal, note the ending of a meal. Alla fine di un pasto, notate la fine del pasto. We are very good at noting beginnings, at seeing beginnings. Siamo molto bravi a guardare l'inizio dei fenomeni. Because that's birth, that's the rising of the day, the dawn. Perché rappresenta la nascita, l'inizio di un nuovo giorno. But we don't want, see, but we don't want to see the ending. Ma noi non vogliamo vedere invece la fine. This is the end of the day. This is the darkness of sleep. This is death. Questa è la fine della giornata. È il buio del sonno. È la morte. So our attention is both at the beginning and also at the end. Quindi la nostra attenzione va sia all'inizio che alla fine. I think we will find that all fear, all anxiety is the fear and anxiety of ending, the fear and anxiety of death. Scopriremo che tutte le nostre paure, le nostre ansie sono paure e ansie legate alla fine delle cose, alla nostra morte. And because we are deluded, we try to seek real happiness in this transient world. E poiché siamo illusi, noi cerchiamo la vera felicità in questo mondo transitorio. And it cannot deliver. It's impossible to deliver perfect happiness in a transient world. Ed è impossibile da ottenere, è possibile avere una felicità permanente in un mondo impermanente. Yes, permanent, not perfect, permanent. So this is where the wrong desire begins. È qui che nasce, inizia il desiderio errato. And this wrong desire, the Buddha says, is the cause of suffering. Ed è proprio questo desiderio errato la causa della sofferenza, secondo il Buddha. This is the second noble truth. È la seconda nobile verità. Now, the first one is that there is suffering. La prima è che esiste la sofferenza. And the second, and the third one is that there is a complete end to this suffering. La terza nobile verità è che c'è una completa fine di questa sofferenza. Mm. And the fourth is the path. That's what we're practicing. E qua la quarta nobile verità è il sentiero, è ciò che stiamo praticando. And the third one is something which is often confuses us. The third universal truth. Yeah, the third characteristic of existence. La terza, tornando alle caratteristiche dell'esistenza, la terza caratteristica è una cosa che un po' ci confonde. Mm. It is the teaching of not self. Perché è questo insegnamento che riguarda il non sé. So, when you put aside all the philosophy and metaphysics. Quindi mettendo da parte tutta la filosofia e la metafisica. Mm. And you see it as a technique in order to discover who or what we really are. E quindi prendete la pratica come una tecnica per scoprire chi siamo veramente. Which is actually how the Buddha uses it. Che è proprio il modo in cui l'ha usato il Buddha. Then it's very simple. Allora è molto semplice. If it arises and passes away, it can't be me. Se una cosa sorge e passa, beh, non posso essere io. That's it. Tutto qui. If I cannot control it, it can't be me. Se io non posso controllarlo, non posso essere io. So in our meditation we're seeing. Is what I'm experiencing arising and passing away? E quindi nella nostra meditazione questo noi lo sperimentiamo, cioè tutto quello che sorge, tutto quello che noi vediamo sorge e passa. If it's arising and passing, it's not me. Se sorge e passa, non posso essere io. And it arises and passes away, whether I want it to or not. E sorge e passa che io lo voglia o no. So it can't be me. Quindi non posso essere io. So hopefully, as we begin to see what is not me, we discover what there really is. E quindi si spera che man mano che scopriamo che questo non sono io, scopriremo quello che è veramente. And this is Nibbana. Ed è il Nibbana. I shall also say something more about that this evening. Stasera dirò qualcosa in più a riguardo. So you see, the practice is very simple. Vedete che la pratica è molto semplice. There was a monk who was very dull-minded. C'era un monaco che era molto, aveva la mente un po'. How do we say these? Un po' stupido, dai. How do we say these days? Intellectually challenged. Sì. Learning. Learning disability. Aveva un disturbo dell'apprendimento. He said, when he learnt a teaching from the Buddha, because remember in those days it was oral, nothing's written down. Quindi a quei tempi tutti gli insegnamenti erano passati per via orale, non erano scritti. So when he tried to learn a phrase from the Buddha, it knocked the phrase he already had in his mind out. E quindi diceva che ogni volta che lui cercava di imparare una nuova frase del Buddha, questo praticamente cancellava quella che aveva imparato precedentemente. So his brother said, you know, it's better for you to leave the order, you can't be a monk. Allora il fratello gli ha detto, beh, forse è meglio se lasci l'ordine, perché non puoi diventare un monaco così. So when the Buddha heard this, he went to see him. Questo era il tempo del Buddha. Quando il Buddha l'ha sentito, è andato a trovarlo. And he said, no, he said, forget all that. Ha detto, no, scordatevelo. And he gave him a piece of cloth. Gli ha dato un pezzo di stoffa. Which was clean. Pulito. Mm. And he said, just rub it and wipe the sweat off your face and just keep rubbing it and doing that. Allora gli ha dato questo pezzo di stoffa e ha detto, usalo per pulirti il viso, togliere il sudore e poi lo strizzi. E fai solo questo. And as you're doing it, keep saying impermanent, impermanent. E man mano che lo fai, continua a dire impermanente, impermanente, cambiamento, cambiamento. He was fully liberated. Si è liberato completamente. Unfortunately, it doesn't work for everybody. Ma fortunatamente non funziona per tutti. So here we see that the Buddha had a way of understanding where people were and what might work for them. Qui vediamo che il Buddha aveva un modo di capire a che punto erano le persone e di trovare qualcosa che funzionasse per ognuno. So this is not, you don't have to be clever to become liberated. Questo per dire che non c'è bisogno di essere particolarmente intelligenti per liberarsi. You don't have to be an athletic person. Non bisogna essere particolarmente atletici. Just an ordinary, simple person will do. Basterà una persona ordinaria, semplice. So, we have discussed right awareness. Quindi abbiamo discusso la giusta consapevolezza. And remember the picture of a child. Quindi ricordate questa immagine del bambino. The two types of defilements and how to deal with them. I due tipi di inquinanti mentali e come affrontarli. And we've discussed the three characteristics of existence that we're actually investigating. E abbiamo discusso delle tre caratteristiche dell'esistenza che è quello che noi stiamo, che sono l'oggetto della nostra investigazione. Impermanence, the role of desire, wrong desire, and not self. L'impermanenza, il ruolo del desiderio errato e il non sé. I can only hope my words have been of some assistance. Posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. And by your determined practice you will achieve liberation sooner rather than later. E con la vostra pratica determinata raggiungerete la liberazione prima piuttosto che poi. Ciao. Grazie. So we're running a little late, but